campi di lavanda e l'auto che va dietro quei cipressi la strada piegherà e basata la collina chissà se la casa come un tempo mi apparirà. Ogni volta che ti penso eri là, col sorriso in tasca largo ed incredulo, quanti bimbi e cani avevi intorno e che chiasso di colori al tramonto. E i ricordi si confondono laddove non vorrei, le memorie poi si increspano e non so più chi sei. E i venti del cuore soffiano, e gli angeli poi ci abbandonano con la fame di volti e di parole, seguendo fantasmi d'amore, i nostri fantasmi d'amore. Mi sembrava quasi un'eternità, non salivo scalzo sopra quel licine, in penombra ti guardavo dormire, nei capelli tutti uniti d'aprile, e le immagini si perdono, fermarle non potrei. E le pagine non svelano chi eri, chi ora sei. E i venti del cuore soffiano, e gli angeli poi ci abbandonano con la voglia di voci e di persone, seguendo fantasmi d'amore, i nostri fantasmi d'amore, seguiamo fantasmi d'amore, i nostri fantasmi d'amore. Seguiamo fantasmi d'amore, i nostri fantasmi d'amore.